America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. I'm not about talking and finger pointing and complaining. I'm about getting things done. Christine Quinn, avete ascoltato la democratica che potrebbe diventare il prossimo sindaco di New York. Ecco, è una notizia non da poco, intanto perché ci consente di focalizzare sul fatto che il sindaco Bloomberg, che ormai regna sulla città da quasi 12 anni, è alla fine del suo mandato, finirà entro il 2013. E poi sul fatto che c'è, insomma, questa battaglia che si è aperta, c'è anche un italoamericano che corre, sono vari candidati, però la persona che finora ha raccolto, come dire, il maggior numero di consensi e ha scatenato la passione dei newyorkesi è Christine Quinn, per varie ragioni. Intanto la città non ha mai avuto un sindaco donna. Lei, tra l'altro, è la presidente della Camera, la speaker della Camera del Consiglio cittadino a New York, quindi non è che viene dal nulla, è una politica consumata e affermata. Ma poi, oltre ad essere potenzialmente il primo sindaco donna, è anche apertamente omosessuale e dunque rappresenta, se volete, un balzo in avanti, no, per la città di New York. La città di New York è popolata da una vasta popolazione gay. L'annuncio è stato fatto domenica, ieri se ne è parlato un po' su tutti i giornali. Ecco, dunque, la donna nella politica, se ne parla anche in Italia, voglio dire, per la prossima carica di Presidente della Repubblica sono fatti nomi di varie donne. E l'argomento del giorno diventa ancora più del giorno perché ieri è uscito un libro di Sheryl Sandberg proprio su quello che lei vorrebbe, come dire, definire un nuovo movimento femminista, un movimento femminista moderno per dare alle donne la possibilità di reclamare quello che meritano, quello che devono avere, dicendo dovete prendervelo, perché se non lo prendete è colpa vostra, non è colpa degli uomini che vi mettono sotto. I wish I could just go tell all the young women I work for, all these fabulous women, believe in yourself, negotiate for yourself. Own your own success. L'avete sentita, il tono fiero di Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg, chi è? Il direttore operativo, il chief operating officer di Facebook. Una donna che ha avuto una carriera straordinaria, 43 anni, sposata, ha dei figli, si è laureata con Larry Summers a Harvard, ha lavorato al tesoro con Larry Summers. Insomma, è una donna che ha fatto di tutto e a un certo punto ha creato molta sensazione con un discorso in questi famosi TED Talks, che sono dei discorsi in cui si cercano così di portare degli argomenti che possano aprire delle nuove frontiere. E in questo discorso ha dato un po' l'embrione del messaggio che poi è uscito nel libro di ieri, un messaggio per le donne. Le donne sottovalutano sempre le proprie capacità, magari sono un po' timide, invece no, devono assolutamente affermarsi. E poi, parlando del matrimonio, insomma, il marito deve essere un vero partner, non una meteora nella vita domestica, perché sennò la donna, nel momento in cui arrivano i figli, finisce che fa due o tre lavori. Invece no, bisogna condividere in modo uguale nel momento in cui tutti e due lavorano. Dunque l'America dibatte di questo, ma io da New York vi devo dare una notizia, cioè che noi come Italia in realtà, dal punto di vista femminile, siamo parecchio avanti, e lo siamo così nella ufficialità dello Stato italiano, perché al nostro consolato generale di New York, nelle posizioni di vertice, abbiamo Natalia Quintavalle, che è il nostro console generale, il console generale aggiunto Laura Aguilarra, e Lucia Pasqualini, che è il console. E non era, io devo dire, sono qui da parecchi anni, alcuni dei miei ascoltatori lo sanno. E non solo non si erano viste molte donne in posizioni chiave al consolato, ma addirittura tre tutte insieme, devo dire, è un primato che probabilmente può fare lezione anche agli americani. Con me ai microfoni di America 24, proprio Natalia Quintavalle, console generale a New York. Buongiorno, console. Buongiorno a voi. Lei ha ascoltato quello che ho detto, abbiamo forse un nuovo sindaco donna a New York, ci sono polemiche sul libro di Sheryl Sandberg. Che riflessione fa tra questo dibattito americano e tra il fatto che, insomma, al nostro consolato tre donne si sono affermate senza bisogno di leggersi il libro della signora Sandberg? La prima riflessione che mi viene spontanea è che la cosa che più ci colpisce in queste reazioni, diciamo, di fronte a queste cose, di fronte a una candidatura femminile a sindaco di New York o di fronte a una possibile candidatura o possibili candidature in Italia a vari livelli della nostra politica, che le persone continuano a stupirsi. Noi saremo felici quando finalmente il mondo non si stupirà più di vedere delle donne sedere in posizioni importanti. Devo dire però che il fatto che al consolato a New York ci siano tre donne è frutto in parte del caso, moltissimo della determinazione delle tre donne che siedono qua. In questo do in parte ragione al libro che già sta suscitando le polemiche di cui parlavamo, e dico in parte perché in realtà è vero che la determinazione a sedere nei posti importanti ci deve essere, ma è vero che la responsabilità per il fatto che poche donne siano in posizioni importanti non è delle donne, ma è di chi ha gestito la società con criteri che premiavano gli uomini e non le donne. Però è proprio questo che la Sandberg in qualche modo nega, dice no, insomma, datevi da fare, smettetela di dire che è colpa degli uomini, perché è qua, se voi vi date da fare, e poi in qualche modo porta se stessa come esempio. Ma certo, io potrei portare me stessa come esempio, però per ottenere quello che io stessa, la mia collega Aguilar e la mia collega Pascolini siamo riusciti ad ottenere, abbiamo dovuto fare uno sforzo che era incomparabilmente superiore a quello dei nostri colleghi maschi e soprattutto approfittare di una serie di congiunture favorevoli che non è detto che si verifichino con tanta frequenza. Le donne in diplomazia sono tuttora una percentuale molto bassa rispetto al totale. Quando dico ci vuole molta determinazione e dipende molto anche da noi, ne sono assolutamente convinta, ma sicuramente non sono disposta a dire che si possa fare tutto senza cambiare una mentalità che invece continua ad essere prevalente e che penalizza e che costringe le donne a fare di più per ottenere le stesse cose che ottengono i colleghi uomini. Beh, devo dire, in diplomazia in America ci ha dato però alcune lezioni, perché abbiamo visto il ministro degli esteri, non soltanto Hillary Clinton, ma prima di lei Condoleezza Rice, e alle Nazioni Unite abbiamo ovviamente Susan Rice. Però mi ha colpito che in questa polemica avviata da Sheryl Sandberg si è poi inserita a gamba tesa Maureen Dowd, che come lei saprà è una delle più importanti columnist americane, a sua volta donna di straordinario successo, che si è creata un grandissimo pubblico, e che attacca questa signora Sandberg definendola, questa Betty Friedan, la grande femminista americana, per l'era digitale, e concludendo che alla fine questa signora dice vende se stessa per fare una bella campagna di marketing, sottointeso ovviamente per Facebook. Ecco, è d'accordo con questa critica? Cosa dice? Non sono così severa come Maureen Dowd, perché ritengo che ci sia bisogno di tutto per ottenere appunto una cambiamento sociale, anche di una campagna che ha un altro scopo, ma che converge nel far prevalere l'idea della parità, dell'uguaglianza di genere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo dedicato la puntata alle donne, e sempre alle donne voglio dedicare la canzone del giorno, John Lennon, Woman. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!